Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Quella di oggi è una storia di sport, ma soprattutto è una storia di come si possa arrivare ai massimi traguardi anche quando all'inizio il tuo destino sembra essere segnato in negativo. Questa è la storia di Wilma Rudolph, atleta americana nera, nata con la poliomielite e entrata nella storia con 3 ori olimpici conquistati alle Olimpiadi di Roma del 1960. Medaglie vinte correndo e saltando come una gazzella, una gazzella nera. Duemilacinquecento anni fa Pindaro disse: abbiano tregua gli affanni e le lotte, affinché i giovani si affrontino nelle pacifiche contese dei giochi. 13 giorni prima, sul monte Olimpo, l'ultima sacerdotessa ripeteva nell'antico tempio di Giove l'usanza di accendere il fuoco con i raggi del sole. Panaiotis e Pitropoulos, e dopo di lui oltre 1000 staffette porteranno questo fuoco a Roma. La mitologia dello sport e delle Olimpiadi è la cornice di questa storia, il cuore invece è la sua vita, la vita di Wilma Rudolph. Lei nasce nei primi giorni dell'estate del 1940, il 23 giugno, con un parto prematuro in una piccola frazione a nord-est di Clarksville, nello stato americano del Tennessee. È una terra conosciuta per le coltivazioni del cotone e per essere la culla della musica country. Il padre di Wilma si chiama Edfa, il facchino nelle ferrovie. La madre, Blanche, lavora come cameriera presso una famiglia bianca. È un impiego che è già un lusso nella provincia americana di quegli anni, perché la segregazione razziale è ancora purtroppo una realtà quotidiana. Beh, la famiglia è molto numerosa e sicuramente non avevano la televisione, ma neanche la radio, perché Wilma è la 20ª dei 22 figli del padre e la 6ª degli 8 figli della madre. 4 anni dopo la nascita, Wilma ha già contratto le malattie dell'infanzia, ma arriva, oltre al morbillo, alla scarlattina, alla pertosse, arriva come una mannaia la poliomielite. Per i successivi 5 anni i medici la costringono a indossare un supporto lungo la gamba sinistra. Wilma ha 9 anni. Wilma passa 5 anni atroci, molto difficili, viene curata al Mary Hospital fuori Nashville, a 50 miglia da dove abita la sua famiglia. Qui c'è un'equipe di medici di colore che le prescrive una terapia intensiva. Grazie alla madre e ai fratelli, lei viene accompagnata in corriera, fa avanti e indietro per 2 volte alla settimana, imparando a camminare prima con un bastone e poi con un tutore in acciaio che le sorregge la gamba sinistra. La cosa più difficile della mia infanzia, quando a causa della poliomielite dovetti portare un tutore fino a 9 anni, era il fatto di non poter essere come i miei compagni, gli altri bambini. Soprattutto la paura di non essere accettata da loro e il non poter fare tutto quello che volevo fare. Non si può andare avanti e indietro da casa all'ospedale, così i medici insegnano a tutta la famiglia come fare quei massaggi che sono fondamentali per alleviare il dolore alla bambina e per aiutarla a riprendere a camminare. Un elemento fondamentale non è retorica, è l'amore, la dedizione con cui tutti l'aiutano. E infatti il risultato è sorprendente. A 9 anni lei si sbarazza del tutore. Le prescrivono una scarpa ortopedica che lei userà per altri 2 anni. Ma Wilma Rudolph ha carattere e forza da vendere. Ha una famiglia che la sostiene e alla fine prende quella scarpa ortopedica e le dice addio, lasciando a bocca aperta tutti i medici. Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni. Certe persone non ci credono, ma invece è così. Lo so che non mi crede se glielo dico, ma io corro come il vento che soffia. E da quel giorno se andavo da qualche parte, io ci andavo correndo. E Vilma, come Forrest Gump, ha un destino ancora non evidente ma già scritto. È una predestinata. Le biografie raccontano che un giorno sua madre torna a casa, la vede nel cortile dell'abitazione. Lei ha 12 anni e davanti agli occhi spalancati della madre la ragazzina sta giocando in strada a piedi nudi con i fratelli e i loro amici maschi. Gioca a basket, salta, corre, altro che difficoltà a camminare, altro che tutori e scarpe ortopediche. Il miracolo è compiuto, finalmente Vilma può iniziare a fare sport sul serio. Alice entra nella squadra di basket. Non è solo alta, ha anche doti atletiche eccezionali. È velocissima. Vilma è nata per correre. Per Vilma lo sport è fondamentale, ma le sue origini e la sua famiglia non le fanno mai dimenticare l'importanza dello studio. Lei cresce con una netta convinzione: lo sport può essere per lei uno strumento per ambire a un futuro migliore. Dentro di me ho sempre guardato all'educazione. Arrivando da una famiglia umile e molto numerosa, su 22 fratelli e sorelle io potevo essere la prima ad avere la possibilità di andare a scuola. E la cosa grandiosa era che potevo utilizzare le mie capacità atletiche per ottenere una borsa di studio. Ecco come la pensavo. Negli Stati Uniti lo sport è una cosa molto seria. Già al liceo, nella scuola di Vilma, a un certo punto due allenatori sono incaricati di creare una scuola di atletica. Si chiamano Bar Gray e soprattutto Ed Temple, che sarà una persona importantissima per Vilma nel suo percorso verso gli ori olimpici. In tutti i casi gli allenatori cercano subito gli atleti nel club di basket dove gioca Vilma. Ed Temple è subito colpito da questa ragazzina di colore che ha, oltre a gambe lunghissime e un fisico d'atleta, occhi scuri in cui si vede ardere un fuoco. Lui non ha dubbi, la vuole in squadra. Vilma deve scegliere: continuare a buttare palle nel canestro oppure lanciarsi in pista. Sceglie la seconda strada e in breve tempo la ragazzina, che secondo i medici non avrebbe mai camminato, inizia a correre veloce come il vento. Torniamo con Vilma Rudolf e la sua corsa verso le Olimpiadi di Roma tra poco. E il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Vilma Rudolf, che da una diagnosi di poliomielite da bambina passa a 3 ori olimpici a Roma nel 60. Peraltro prima americana a fare questo risultato in una sola Olimpiade. L'abbiamo lasciata al suo esordio in pista, strappata al basket e portata all'atletica dal suo allenatore Ed Temple. La sua importanza, l'importanza di Ed Temple nella vita sportiva di Vilma, la sentiamo dalla voce della nostra stessa protagonista. My coach Ed Temple at Tennessee State that I had been with. Ed Temple, che era il mio allenatore di atletica sin da quando avevo 13 anni, quando l'avevo conosciuto al Tennessee State, venne nominato allenatore ufficiale del team di atletica per gli Stati Uniti ai Giochi Olimpici. Tutto ciò era incredibile, perché non capita spesso di avere la possibilità di avere con te il tuo allenatore personale ai Giochi Olimpici. È una cosa così rara e speciale. E lui mi stette sempre accanto, fino al momento in cui dovetti entrare allo stadio attraverso il tunnel e lui prese posto in una tribuna speciale. Una volta dentro lo stadio, potevo vederlo al suo posto e quella era l'unica cosa di cui avessi bisogno. Vilma ha 16 anni, è già alta 1,80 m. Siamo nel 1956 e lei riesce già ad accedere ai giochi olimpici di Melbourne. Beh, nei 200 metri le cose vanno male, viene eliminata nelle batterie, ma nella 4x400 la Rudolph vede per la prima volta una medaglia olimpica, la medaglia di bronzo. È la sua prima Olimpiade, è poco più che una ragazzina, ma l'esperienza la fa crescere, la rende consapevole delle proprie possibilità. Quando torna a scuola si presenta con la medaglia e la fa vedere ai compagni di classe e, come lei stessa racconta al Chicago Tribune, le viene un pensiero nella testa. È un'idea che si fissa e che diventa il suo obiettivo del futuro. Si passavano la medaglia di mano in mano per vedere come fosse fatta. Quando è ritornata nelle mie mani, era piena di impronte. Allora ho cominciato a lucidarla, ma ho scoperto che il bronzo non brilla. Così ho deciso che avrei dovuto aspettare 4 anni e puntare direttamente a loro. Ormai nella squadra senior, ha 17 anni, però come buona abitudine di famiglia nel 1958 rimane incinta. Il compagno è Robert Eldridge, che è un suo collega di università, un talento della pallacanestro universitaria dello stato del Wisconsin. Nasce Yolanda, il frutto del peccato, è la prima di 4 figlie che la nostra protagonista avrà negli anni. Vilma è molto giovane e quella gravidanza non è proprio accolta con gioia dalla sua famiglia. Al contrario, il padre di Vilma è un uomo molto severo, proibisce al ragazzo di vedere sia Vilma che la piccolina, che viene accudita dalla famiglia materna. Quindi lei può fare la mamma, ma anche concentrarsi sul suo obiettivo primario, quello delle Olimpiadi del 1960, e quell'anno i giochi si tengono nella cornice suggestiva della capitale d'Italia, Roma. 25 agosto, la grande Olimpiade ha inizio. È la sfilata delle rappresentative di 84 paesi. Avery Brundage, presidente del Comitato Internazionale Olimpico, invita il capo dello Stato italiano a dichiarare aperti i giochi. Proclamo l'apertura dei Giochi Olimpici di Roma, celebranti la 17ª Olimpiade dell'era moderna. Il capo dello Stato era Giovanni Gronchi, a lui l'onore di aprire quell'edizione dei Giochi Olimpici. Al suo fianco, nelle immagini dell'Istituto Luce, c'è già Giulio Andreotti, che aveva 41 anni ed era presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi. Andreotti, che è onnipresente nella storia italiana per 40, per 50 anni. Beh, in ogni caso, gli italiani notano quell'atleta statunitense dalle gambe lunghissime, le danno il soprannome di Gazzella Nera, e lei è la grande protagonista di quelle Olimpiadi romane. Conquista 3 medaglie d'oro, la prima atleta americana a raggiungere questo traguardo. Corre i 100 metri in semifinale, eguaglia addirittura il record del mondo, 11 secondi e 3, ma nella finale fa ancora meglio, vince con 11 secondi netti, inficiati solo da un po' di vento a favore, per cui il primato non viene riconosciuto. Per intenderci, è vero che oggi il record femminile sui 100 metri è 10,49, ma gli 11 secondi netti di Vilma sarebbero un viatico per una finale olimpica anche oggi. Wilma Rudolph starts a saga of individual glory as she speeds away from her rivals for a clear cut. In quella finale, tra l'altro, al terzo posto arriva un'atleta italiana, Giuseppina Leone, detta Giusi, una delle nostre migliori sprinter di sempre. 3 giorni dopo, Vilma è ancora in pista e corre i 200 metri, che vince in 24 netti, dopo aver eguagliato in batteria il primato olimpico con 23,2. In finale la sua vittoria è schiacciante, come nei 100 metri. Lei non è un fulmine in partenza, ma dopo 3 falcate la differenza è già evidente, quindi nei 200 metri ha ancora più tempo per staccare tutte le avversarie. Per quanto riguarda le partenze, ho sempre detenuto il peggior record nella storia dei velocisti, e questo era dovuto alla mia taglia. In effetti, sono la più alta sprinter mai uscita da un team statunitense. E così, nelle mie prime 30-40 yard, non ero mai in gara. Ma il più lontano correvo, il più veloce diventavo. E poi potevo sempre accelerare alla fine. Era quella la chiave del mio successo. Il terzo oro, quello che proietta Vilma ancora di più nella storia dello sport americano e mondiale, arriva dalla staffetta 4%. La gara è conclusa con il nuovo record mondiale 44,5. Questi tre ori rendono Vilma immediatamente la star dei giochi. I giornalisti di tutto il mondo si divertono a darle soprannomi che ne esaltino l'eleganza, la potenza e la bellezza. Al villaggio olimpico è al centro dell'attenzione. Tra quelli che vengono conquistati c'è anche Livio Berruti, un corridore italiano che ci regalerà di lì a poco una storica medaglia nei 200 metri. Ne parliamo tra poco. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia della prima americana che vince tre ori nella stessa Olimpiade, quella di Roma, ma stiamo raccontando la storia di una bambina che, colpita da poliomielite, avrebbe dovuto avere gravi problemi di deambulazione, non avrebbe potuto camminare, e invece vince tre ori olimpici diventando il personaggio più importante di quelle meravigliose Olimpiadi romane della tarda estate del 1960. L'atleta americana vince i 100, i 200 metri e la staffetta 4%. Vilma Rudolph è al centro dell'attenzione mondiale. I giornalisti le attribuiscono molti soprannomi, dalla gazzella nera ai francesi, per i quali lei diventa la perla nera, gli inglesi la definiscono il tornado del Tennessee. E poi, quando i media scoprono la sua storia, la sua lotta contro la malattia che ha minacciato di renderla invalida per sempre, naturalmente l'interesse aumenta ulteriormente, perché la sua forza positiva non può che colpire tutti. Tra quelli che vengono colpiti c'è anche un atleta italiano, è un ragazzo timido con gli occhiali, si chiama Livio Berruti, ma anche per lui queste Olimpiadi saranno molto importanti. Splendida medaglia d'oro all'Italia nei 200 metri piani ad opera di Berruti. Lo scattista azzurro ha compiuto il miracolo, ha realizzato un'impresa ritenuta impossibile. 20 secondi e 5 decimi. Il record mondiale raggiunto, superato il limite europeo e nazionale nel breve battito di pochi sussulti. Il nostro atleta ha guadagnato su Johnson, che gli è accanto. Supera Norton, esce in rettilineo nettamente primo. I due negri americani non possono nulla. È al traguardo mentre lo stadio esplode come un vulcano. Vincendo nel tempo di 25, Berruti è entrato decisamente nel quadro dei più grandi atleti del mondo. Gli avversari sono rimasti annichiliti. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, l'Italia ha guadagnato una medaglia d'oro nelle gare di velocità. Una splendida vittoria in rimonta che tutti gli italiani hanno visto e rivisto per decenni. Così ce la racconta la settimana Incom dell'epoca. Oh, non scandalizziamoci se il radiocronista a un certo punto definisce negri gli avversari, perché allora si usava così. Ricordate Siamo i Vatussi, gli altissimi negri, il pittore dipinge un angioletto negro, quindi allora andava così, insomma eravamo meno buonisti sull'argomento. Livio Berruti, torinese, ha 21 anni, è uno studente di chimica e corre con gli occhiali da sole graduati. Vincerà e il CONI lo premierà con 1.200.000 lire e una Fiat 500, quindi per i tempi insomma un bel premio. Berruti oggi ha qualche anno in più e ricorda quei giochi come le Olimpiadi del sorriso. Un'atmosfera gioiosa, piena di slanci amichevoli verso tutti, non c'era nessuna sensazione di diversità, non c'erano quegli atteggiamenti di contrapposizioni ideologiche o confessionali o economiche o etniche, quindi sembra una vera festa dello sport dove ognuno cercava di andare a rendere al massimo in campo, però fuori dal campo ci sentivamo tutti uguali, ci scambiavamo grandi sorrisi, ci scambiavamo i distintivi, tutti quei piccoli gadget che si aveva, proprio c'era un centro di, diciamo, di incontro nel villaggio olimpico dove tutti si incontravano e tutti si scambiavano informazioni, quindi c'era voglia di parlare, di conoscersi, di dialogare. Ecco, questo forse è stato l'Olimpiade del sorriso e del dialogo. Livio Berruti, a 19-year-old Italian student, has saved all his strength for the 200 meters. Berruti is a rather shy boy, but with an inner assurance of reaching the final. The shy boy, il ragazzo timido Berruti, sentiamolo ancora mentre parla di Vilma Rudolph. In fondo lo sport ha di bello che deve essere anche un fatto estetico, non deve essere solo un risultato, diciamo, tecnico, ma soprattutto deve essere anche una bella espressione estetica da ammirare. E Vilma aveva questo grosso vantaggio, che correva con una tale facilità, con una tale fluidità, con una tale eleganza, che colpiva tutti e quindi aveva subito colpito l'immaginazione di tutti gli atleti che cercavano di vederla, di ammirarla, di toccarla, e di questo se ne era reso anche conto, quindi se si sentiva un po' una prima donna in mezzo a tante colleghe, ma lo faceva con tanta disinvoltura, con tanta serietà, con tanti sorrisi. Infatti aveva un sorriso talmente ammagliante che colpiva chiunque stesse vicino. Beh, è carino vedere Berruti, che mi sembra che ancora 55 anni dopo subisca il fascino di questa meravigliosa gazzella nera. Una volta per tutte, bisogna che ci racconti com'è andata esattamente la vicenda. È stato un momento molto bello e molto edificante, nel senso che a un certo punto il villaggio olimpico mi si presenta il suo allenatore e mi chiede: ma sai, c'è Vilma Rudolph che vorrebbe fare uno scambio di tute con te. Ovviamente io, che la conoscevo a distanza ma che ammiravo la sua eleganza di corsa, ho subito accettato e cominciamo questo incontro in quel io porto la mia tuta, li porto la sua, ci scambiamo, pur avendo difficoltà di dialogo perché lei parlava solo inglese e il mio inglese era scarsissimo. Mi faceva dei tre sguardi pieni di questa gioia radiosa, voglia di vivere, di trasmetteva un senso di felicità globale che subito creò un feeling immediato con me. Infatti in giro di pochi minuti ci trovammo a camminare mano nella mano nel villaggio olimpico, battendo di tre anni con la famosa frase di Martin Luther King che diceva: il mio sogno è quello di vedere un nero e un bianco andare in giro mano nella mano per il mondo. Però c'era un piccolo intoppo, che a quei tempi mai prima delle gare bisognava passare dalla fase platonica alla fase aristotelica, quindi si pensava di, dopo le gare, difficilmente di uscire, di cambiare il nostro rapporto in maniera molto più concreta. Purtroppo non sapevo che il Comitato Olimpico Americano era talmente povero che dopo, alla fine di ogni gara, per non pagare, mi pare, $6 al giorno di permanenza al villaggio olimpico, il suo atleta veniva impacchettato e rispedito immediatamente indietro. Alla sera di presentare il villaggio femminile, perché a quei tempi c'erano due separazioni molto rigorose fra villaggio maschile e villaggio femminile, di presentare il villaggio femminile per portarla fuori, e ebbi la mala sorpresa di vedere che lei era già partita. Quindi è stato un momento bello, esaltante di rapporto, ma purtroppo rimasto molto molto platonico, molto pieno di intenti ma con poco concretezza, ahimè. Quindi niente fase aristotelica per Berruti, che viene ricompensato dal destino con una meravigliosa medaglia d'oro che forse non avrebbe mai vinto se si fosse lasciato andare con la bella Vilma. Però così si passa alla storia. L'anno successivo ci ha raccontato Berruti che erano entrambi a un meeting di atletica, però ahimè Vilma era assieme a quello che sarebbe diventato il suo primo marito e anche lì non ci fu quell'incontro che non ci sarà poi mai. Però al di là del gossip e dell'interesse dei giornali, le foto di Vilma e Livio mano nella mano sorridenti nel villaggio olimpico fanno il giro del mondo. Dita bianche che accarezzano dita nere, è un messaggio notevole se si considera che siamo nel 1960 e che Martin Luther King il famoso discorso I Have a Dream lo pronuncerà solo 3 anni dopo. What we need to survive. C'è una altro aneddoto che riguarda il fascino di Vilma, che come avete sentito ha lasciato una traccia, un rammarico, quasi una ferita aperta nel cuore di Livio Berruti. C'è un altro campione che viene colpito dalla Rudolph ed è un campione di box che si chiama Cassius Clay, che diventerà Mohamed Ali. Anche lui è a Roma e anche lui, come anche Nino Benvenuti per esempio, anche lui conquista una medaglia d'oro. E lui stesso ci confida che dopo quel 1960 si prende una bella cotta segreta per lei. È segreta perché è troppo timido per farglielo sapere, dice Ali. Si racconta che lui, rientrato negli Stati Uniti da Roma, già un po' meno timido, si presenta nella scuola della Rudolph con a bordo di una Cadillac Rosa. I due si incontrano, si salutano, ma niente di più. Lui non si dichiara e anche Cassius Clay va in bianco. Quell'anno la Associated Press nomina Vilma atleta donna dell'anno, e anche nel 61, anno in cui lei migliorerà il record mondiale dei 100 correndo questa volta senza vento in 11 secondi e 2 decimi. Sono tempi in cui i grandi atleti, anche quelli che portano al collo le medaglie, non possono vivere solo di sport, perché l'era degli sponsor è ancora lontana, il professionismo è veramente un rischio, chi viene scoperto a essere professionista anche per pochi dollari viene squalificato. Quindi per Vilma si annuncia prossimo il momento del ritiro. C'è ancora tempo per una competizione importante, per lasciare un segno. L'occasione è un meeting emblematico, Stati Uniti contro URSS, contro Unione Sovietica, uno di quei confronti sportivi tra i protagonisti della guerra fredda. Vilma ha bisogno di nuove motivazioni dopo la tripletta olimpica. Ero a Palo Alto in California, alla Stanford University, nella gara Stati Uniti contro Russia. È vero, correvo bene, ma il cuore non era più con me. Voglio dire, per vincere devi continuare a mantenerti motivato, devi essere un po' affamato per riuscire a vincere e rimanere sulla cresta. Allora quel giorno feci una promessa a me stessa. Mi dissi: se prendi i russi, fai la storia. Se non li prendi, dovrai correre per altri 4 anni e partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo in Giappone. Allora ho preso i russi e quel giorno ho concluso la mia carriera sportiva e sono entrata nella storia. Fu la corsa singola più veloce della mia carriera e ricevere una standing ovation nel mio paese, cosa mai accaduta prima, è stato il momento più incredibile di tutta la mia carriera. Quel giorno ho chiuso con le gare e non ho mai avuto rimpianti. In un mondo in cui non si vive di atletica, in cui bisogna lavorare, Vilma Rudolph è costretta a abbandonare le gare a soli 22 anni. Ha ricevuto poco o niente per il suo successo in termini economici, quindi torna a casa, lavora come insegnante, allenatrice di atletica, commentatrice sportiva, apre e gestisce cliniche sempre sportive naturalmente, crea anche una sua organizzazione dedicata alla promozione dell'atletica amatoriale. Nel 1963, 2 anni dopo la morte del severissimo padre, Vilma ritrova il suo primo amore, il campione di basket universitario, quello che la mise incinta quando aveva 17 anni e dal quale è nata la piccola Yolanda. Beh, prima di lui Vilma ha avuto un altro matrimonio, finalmente i due si sposano e avranno altri 3 figli, rimarranno insieme per 17 anni fino a un altro divorzio. Per Vilma gli anni dopo la gloria saranno fatti di alti e bassi. Alla fine degli anni 70 i giornali si ricordano di lei, scoprono un momento di difficoltà perché vive in un ghetto. Le sue medaglie sono finite al Monte dei Pegni. Nel 1976 viene inserita nella Hall of Fame dell'atletica americana e un anno dopo esce la sua autobiografia, Vilma Rudolph on Track. Dal libro verrà tratto un film per la televisione intitolato Vilma, e tra i protagonisti c'è un giovanissimo Denzel Washington. Vilma fa tutto prima degli altri, nasce prematura, corre e arriva prima degli altri e muore prematuramente per un tumore al cervello a solo 54 anni. Per tutto il Tennessee le bandiere vengono fatte sventolare a mezz'asta. Nel 1997 l'allora governatore dello Stato pone una lapide di marmo nero sulla sua tomba nel cimitero di Clarksville, la sua città. La sua straordinaria calma e la sua grazia, unite a un sorriso che illumina, sono ciò che la gente si ricorda più di lei. Bill Mullican, un compagno di squadra delle Olimpiadi del 1960, dirà: era bella, era gentile, era la migliore. La sua traccia resta nella storia dello sport, come ricorda Joanna Hayes, un'atleta americana di colore che vince i 100 metri ostacoli nel 2004 ad Atene. Uno dei premi più prestigiosi nel mondo dello sport femminile è il Wilma Rudolph Courage Award, assegnato dal Women's Sports Foundation. Per me e per molte altre, Wilma Rudolph rappresenta una grande ispirazione. È questa la vera eredità che ci ha lasciato. Una storia emblematica di una persona che riesce a reagire, a vincere, a dare un colpo d'ala, vola in alto, ricade, rivola in alto. Sono storie di chi ci è riuscito, di chi ha tentato e di chi ha avuto cadute e risalite, come può capitare a ognuno di voi e a ognuno di noi. Se volete mandarci i vostri commenti o segnalarci altre vite, fatelo, scrivete a ilfalcoelgabbiano@radio24.it oppure cercateci sui vari profili, perché se volete mi trovate. Ciao, a domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso e Giovanni Savarese.